Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. La scatola delle lettere. In questa seconda scatola letteraria, Ondivago vi recapita una confezione che comprende tre produzioni d'eccellenza, testate nei nostri laboratori acquatici. I protagonisti sono tre, o meglio, tre sono le realtà che faremo galleggiare sulle nostre onde. Il blog Tutta colpa della maestra e gli scrittori che lo animano. Il progetto Letteratura necessaria, esistenze e resistenze di Enzo Campi. E infine l'ultima pubblicazione di Alberto Mori, poeta già presente ad Ondivago. Sono stato invitato all'incontro con gli scrittori del blog Tutta colpa della maestra attraverso Facebook. Hanno organizzato un incontro clandestino e fuori programma, dandosi appuntamento sotto la lettera M, che indica il settore corrispondente nello scatolone della Fiera del Libro. Gli scrittori, provenienti da ogni parte d'Italia, hanno inscenato una performance in cui hanno indossato i panni degli alunni, hanno estratto dal nulla una vera lavagna sulla quale hanno preso a scrivere e hanno dato titoli di tema da svolgere ai passanti. Sicuramente una delle iniziative più singolari e accattivanti del Salone del Libro. Allora, il blog si chiama Tutta colpa della maestra, è il contest che abbiamo deciso di utilizzare, è quello degli allievi di una maestra, proprio perché l'amore per la scrittura è nato a tutti, sui banchi di scuola, possiamo dire, con i primi temi che si scrivevano, che venivano dati dalla maestra, ai quali bisognava assolutamente stare all'interno del titolo, quindi mai uscire fuori tema. Erano le prime indicazioni letterarie vere e proprie che ci venivano date fin da piccoli. È nato grazie a Dana Wood e a Giorgio D'Amato, che da anni si conoscevano sempre frequentando altri blog, e un po' alla volta hanno coinvolto la Lepri, hanno coinvolto me, che sono Gianluca Meis, hanno coinvolto altre persone, finché la classe è ormai abbastanza numerosa, siamo quasi una ventina di persone, e pubblichiamo giornalmente almeno uno o due post con dei temi che ci diamo a volte comuni, che abbiamo intitolato sezioni che compongono le pagine letterarie del blog vero e proprio, altrimenti a tema libero, sempre con un titolo, sottotitolo lo svolgimento, che è poi il nome del link del blog, svolgimento.blogspot.it, e sono nate così le sezioni per l'8 marzo sulle donne, la sezione sull'anatomia, la sezione sui grandi scrittori, la sezione, se non me le ricordo tutte, faccio fatica a ricordarle tutte, e basta, e poi soprattutto ecco, quello del tema libero che ognuno cerca di darsi e di svolgere, e poi il bello è che facendo così fa nascere negli altri la voglia di scrivere qualcos'altro, o in risposta o in critica. Ci siamo inventati anche grazie a Giorgio questo bollino giallo che, attraverso il quale ci possiamo dire anche cattiverie di senso critico su quello che è stato scritto, quindi chi vuole lo può mettere, ricevere le critiche, chi non vuole non lo mette, magari le anime più sensibili. E che altro? Raccontateci che cosa sta succedendo qui in questo momento, perché noi ci troviamo al Salone del Libro, ma è una manifestazione non autorizzata. Vedo già due carabinieri qui che giravano per la gioia di Roberta Letri. Che cosa sta succedendo? Sì, lei che è l'esperta di forze dell'ordine che arrivano in caso di omicidio, visto che è quella che più di tutti scrive di cose a volte anche un po' cruente. Lei ha pubblicato anche due libri, tra l'altro ricordiamoli, La ballata della mamma nera, Il volto oscuro della perfezione per Avagliano Editore, più anche altri libri di cui adesso non ricordo il titolo, Mi uccide ucciderà per questo, ma non importa, questi sono i migliori, anzi il migliore è il volto oscuro della perfezione, leggetelo. Noi ci troviamo qui al Salone del Libro di Torino per un reading spontaneo assolutamente non autorizzato, uno per lo scambio di gadget che ognuno di noi ha creato, ci siamo autoprodotti, due perché è stata un'occasione per incontrarci, in quanto tanti di noi vivono a Palermo, altri a Torino, altri ancora a Padova, la Lepri vive in Toscana, quindi è difficile sentirsi e vedersi tutti i giorni. Ci siamo inventati delle occasioni di ritrovo, una è stata a Palermo per una festa reading, mentre i palermitani ne avevano già fatta una in occasione della lettura dei temi dell'8 marzo di cui vi dicevo prima sulle donne, mentre poi abbiamo fatto una festa sempre a Palermo, e questa è la terza volta che praticamente ci incontriamo, la prima alla quale partecipa il più alto numero di scrittori, di alunni del blog, di alunni della maestra. Che vuole aggiungere qualcosa? Allora, io mi chiamo Bea Ari, sono una neofita del gruppo, sono stata trascinata in questa meravigliosa avventura dal mio amico ventennale Meis e sono felicissima perché ho sempre amato scrivere, però in questo modo ho l'occasione di potermi cimentare con la scrittura anche in un modo, diciamo, un po' più creativo, perché poi c'è anche il discorso del confronto con gli altri alunni e quindi lo trovo molto, molto proficuo. Grazie. Chi è gli altri degli altri alunni? Chi sono? Ciao, sono Barbara Goria e sono capitata anch'io un po' per caso a scrivere. Sono timida ed emozionata, però insomma, cos'altro aggiungere? È un'esperienza bellissima, ho aggiunto molte amicizie, molte conoscenze e sono proprio soddisfatta, sì. Grazie. Ciao, io sono Manu Birba, grazie ad Anna sono arrivata al blog, trovo molto bello condividere cose, emozioni, raccontarsi e trovare negli altri dei riscontri spesso anche oggettivi, anche critici in quello che si fa. Sono Roberta Lepri, anch'io faccio parte in modo assolutamente orgoglioso di questo blog di scrittura collettiva. E per me, che sono un individualista nata, è stata veramente una bella esperienza e un'esperienza che voglio assolutamente continuare. Serve moltissimo leggersi attraverso gli occhi degli altri, quindi vedere cosa si riesce a suscitare in modo proprio immediato, perché il blog è uno strumento in cui è vero che il racconto rimane, il tema resta, però lo si consuma nell'arco di un giorno e mezzo, quindi vedere quanta curiosità suscita, quali sono i commenti, quanta voglia c'è negli altri di partecipare per rendere uno scritto ancora migliore, è un motivo proprio di grande soddisfazione personale e quindi spero che porti anche molta fortuna, perché all'interno del blog ci sono degli scrittori ancora sconosciuti ma veramente fantastici, da Gianluca Meis, che ha l'istinto del teatro, è anche attore oltre che scrittore, ad esempio l'Irene Dorigotti, anche lei fa delle cose bellissime, racconti che hanno un sapore quasi di Hemingway e che sarebbero secondo me già pronti per il cinema, tanto sono fotografici e istantanei. Quindi io veramente il mio augurio è quello che questo blog porti proprio tanta tanta fortuna ai nuovi scrittori. Ricordiamo che il blog letterario Tutta colpa della maestra è raggiungibile all'indirizzo svolgimento.blogspot.com. La seconda realtà di oggi, presente a Ondivago, è il progetto Letteratura Necessaria, Esistenze e Resistenze, di Enzo Campi. A Torino, Campi ha presentato il 15° evento, detto Azione, alla libreria Mood di via Cesare Battisti. Dunque, il progetto Letteratura Necessaria, Esistenze e Resistenze è stato inaugurato ad ottobre scorso a Bologna con l'azione numero zero. Parlo di azioni perché in realtà tutti i nostri reading, i nostri incontri, gli eventi che organizziamo vengono denominati azioni e vengono numerati progressivamente. E stasera siamo qui a Torino, è l'azione numero 15, il che significa che nell'arco di qualche mese abbiamo fatto una pausa durante il periodo invernale, viaggiamo al ritmo di 2 o 3 azioni al mese. È un progetto di aggregazione letteraria. Io non parlerei di comunità, ma parlerei di gruppi, perché spesso e volentieri si tende a non cogliere la differenza tra il fare comunità e l'attività di un gruppo. Tutto il progetto si basa sulla condivisione, e sulla condivisione di varie cose, in primis la letteratura, perché ovviamente è un progetto di aggregazione letteraria, ma anche di umanità, perché poi alla fine ciò che conta oltre i libri sono anche le cosiddette risorse umane. E niente, stiamo cercando di creare una sorta di rete divisa per poli geografici di riferimento disseminati lungo tutto l'arco del territorio nazionale, e ogni polo ha o avrà un referente sul luogo con il quale vengono concordati gli autori da coinvolgere nel progetto, le modalità di realizzazione dell'evento, e l'idea di base è quella di creare degli eventi e di soprattutto di cercare la possibilità di ripeterli. Cioè, nel senso che partecipare occasionalmente ad un evento letterario è una cosa alla portata di tutti. Mettersi in gioco in prima persona e tentare di riproporsi anche in città diverse è un altro discorso, perché mette in gioco la volontà di spostarsi e una certa idea di erranza, che dal mio punto di vista è una condizione propria della letteratura. E una domanda che vorrei farti è, da quello che ho letto anche dal progetto, è: va bene l'aggregazione, va bene le risorse umane, ma quali linee poetiche o quali linee estetiche ci sono in questo progetto? Se ci sono. Per il momento stiamo cercando di lavorare sulla varietà, nel senso che partiamo dal presupposto che essendo duttili o comunque versatili o comunque proponendo delle linee cosiddette artistiche, tra virgolette, diverse e svariate fra loro, si possa eventualmente andare incontro a un tipo di fruizione naturalmente diversa e quindi almeno per i primi mesi di attività stiamo cercando di lavorare non tanto su delle situazioni tematiche, ma sul fatto di cercare di coinvolgere un nutrito numero di persone dalle quali poi costituire dei gruppi veri e propri che possano eventualmente nelle altre fasi del progetto contribuire a creare delle situazioni un pochino più durature, perché poi in realtà il progetto è diviso in diverse fasi. Naturalmente non sono fasi isolate tra loro, perché in realtà coesistono fin dall'inizio, perché poi, voglio dire, ci possono essere delle serate esclusivamente performative, delle semplici letture, delle serate dedicate all'approfondimento con presentazioni critiche. Quello che ti chiederei prima di finire è come è nata questa idea di questo progetto e qual è la tua esperienza personale, perché suppongo, insomma, che si radichi nella tua esperienza di scrittura. Di solito sono poeti che organizzano eventi di questo tipo. Sì, siccome la struttura è anche e soprattutto multimediale, nel senso che organizziamo eventi in luoghi che hanno strutture architettoniche molto diverse tra loro e che hanno anche come dire, una predisposizione a degli eventi un pochino più articolati, e quindi la mia esperienza non nasce esclusivamente dalla scrittura, ma proviene da esperienze teatrali e cinematografiche. Avevo una mia compagnia teatrale che in cui si è lavorato piuttosto attivamente per una decina d'anni negli anni 80-90, poi dopo ho avuto delle esperienze cinematografiche, ho realizzato anche un lungometraggio, naturalmente mai distribuito, ma è la sorte di tutti. E quando mi sono reso conto che in realtà in tanti anni di lavoro avevo sempre solo messo in scena testi miei e non avevo mai operato delle riduzioni o degli adattamenti da testi di altri, ho deciso che forse era il caso di cominciare a scrivere per pubblicare. Tutto qua. Tu sei legato anche a una casa editrice che è un'associazione? Sì, in realtà collaboro con la Smasher, non faccio parte della casa editrice, sono un collaboratore esterno, curo una collana di letteratura contemporanea definita tra virgolette sperimentale, perché poi alla fine una collana oggi come oggi, dove tutto viaggia per generi e per etichette, una collana che mette insieme prosa, poesia e saggistica, o comunque che opera su degli territori di confine, deve essere per forza di cosa definita sperimentale, quantomeno per cercare di far recepire il concetto che c'è alle spalle. Ricordiamo che all'evento torinese di Letteratura Necessaria hanno partecipato con le loro letture Tiziano Fratus, Salvatore Sblando, Ivan Fassio con la chitarra di Diego Razza, Jacopo Ninni, Ada Gomez Serito, Silvia Rosa e Max Ponte. Il sito di riferimento è letteraturanecessaria.wordpress.com. Il terzo ospite della puntata è il poeta Alberto Mori. Ondivago l'ha incontrato al Salone del Libro per la sua nuova raccolta poetica. Mori mantiene viva in poesia la voglia di sperimentare e di portare alla luce la realtà materica e sonora che ci circonda. Un compito non facile, ma più che mai all'ordine del giorno nell'imperversare di una poesia sentimentalistica. Performate è una messa in forma della performance nella parola poetica. L'interazione è fra il corpo e la parola e di conseguenza tutti i quadri del libro sono organizzati in questo senso. Le parti del corpo vengono denominate e in qualche modo si cerca di farne sentire la vibrazione spirituale. Ovviamente il lettore ne può trarre la sua con la lettura testuale, poi io queste parole le eseguo e di conseguenza c'è anche la parte orale che entra in rapporto di comunicazione. E mentre una parte della mia produzione lavora in interazione con i luoghi del contemporaneo, tipo bar, distribuzione, medicina, ce n'è un'altra che invece più sperimenta la parola. E precedentemente io avevo fatto un libro che si intitolava Raccordanze per CR Grafica, che era dedicato a Pina Bausch. E lì sperimentavo quella che Pina Bausch chiamava lo Stücke, cioè che è un pezzo di improvvisazione che gli attori, i danzatori dei Tanztheater mettono in azione. E io questo lo facevo con una specie di prosa. In questo caso invece si tratta più di liriche e diciamo come mainstream questo libro si apre con una dedica a Antonin Artaud, che dice che qui voglio piantare una penna viva. Questo perché è molto importante una scrittura del corpo, una scrittura che prima ancora di un senso letterale produca un senso fisico, quasi organico. E in questo già Artaud e le avanguardie hanno già fatto questo, no? Quello di trascendere poi e quindi andare verso una poesia totale, vi dicendo, perché è molto importante anche per la poesia uscire dalla rappresentazione, quindi e lo si può fare in molti modi, la performance e la comunicazione della poesia stessa aiutano. Ricordiamo che l'ultimo libro di Alberto Mori si intitola Performate ed è edito da Scrittura Creativa Edizioni, mentre il sito del poeta è albertomoripoeta.com.